Se ci fate caso, ARTSED contiene le stesse lettere della parola destra, ma in ordine invertito. Avete colto la regola? Ora fate la stessa cosa con ORTEID.